sono delle misure significative come l'alleggerimento, la deducibilità della quota dell'IRAP sul costo del lavoro, la famosa ACE, cioè la deducibilità degli incrementi di capitale delle aziende ai fini dell'imposta IRES sul reddito delle imprese. Queste sono misure importanti. Sappiamo che non abbiamo ancora le misure sul mercato del lavoro. L'unificazione del mercato del lavoro con le misure di sostegno generalizzato della disoccupazione e la flessibilità all'uscita. Questo non c'è ancora e i partner ci chiederanno dove è finita questa parte della misura. E poi io non vedo ancora le misure di apertura delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture di comunicazione, trasporto ed energetiche, senza le quali un forte rimbalzo degli investimenti non sono possibili. Che tempi dà al governo Monti per questa seconda tornata di misure? Credo che adesso, fino a Natale, si andrà in Parlamento con queste misure, che credo sono già un piatto piuttosto abbondante per il Parlamento. Secondo me il professor Monti deve dedicarsi alla seconda parte non oltre la prima decade, la prima quindicina di gennaio. Ho già avuto modo di scrivere e di dire in Italia che il tempo è corto e va sfruttato il goodwill, la benevolenza che oggi il Parlamento non può non dare al professor Monti per spingere tutte le misure necessarie. Quindi anche lei sottoscrive quella che è diventata una bandiera, non solo del nostro giornale, ma così, italiana, e cioè il fate presto. Fate presto.